fai vedere la televisione, e cosa stai bene? Cosa devi fare? La TV mi sto guardando. Eia, eia. Però un attimo. Allora, prova. Ma è successo, sì? Sì, va bene. L'ho abbassato, sono scalda. Un attimo, devo comunque. Beh, se scalda, infatti. Abbassa, già ti sento bene. Comunque ti ha disfatto, non si dice, ma non mai nessuno. Ma niente di là. Ho finito uno, ti muochi so, certo. Beh, magari dopo se avrà sentito Tore già entra, un po' ma già entra, capito? Ma chi ogni tanto si assenta, ma se uno ce la fa è normale che non può entrare, capito? Ma secondo me è arrivato l'impianto. Ehi, vabbè, allora, ci sono qua, l'accendo io, se c'è qualcuno ci parlo, se no è pazienza, capito? Ma se sono qua è sempre acceso l'apparecchio, capito? Fino alle 8, dopo alle 8 non ci riesco, spengo tutto e se parla fino a domani. Ma l'accendo anche la mattina se sono a casa. Sa tutta la mattina, dalle 9 in poi è sempre acceso, sono a casa, fino alla 1. Capito, però durante il giorno per manco un'anima, ragazzi. Ma poi Gio Mario un anno. Sore, aspetto Bacchisio. Dalla portaglia? No, non stavo preparando. E fai come no, fa quando c'è da fare, fa, non ti preoccupare. No, ho già finito, ma io ho messo un po' su Marco, ho fatto la docente, cioè, la fatica c'è, ma la benzina l'ho messa, e vesti le cose, anche se non possono molto, però aspetta, devo salire. Va bene lui. Sì, ma già non posso, già ti pensare, non ho dimenticato, sai, dai, Goku. No, adesso una fatta la do a Luca, che me la va qui. No, è però bene, e a me me l'ha portato un mezzo sacchetto di patate l'altro giorno, mio genero, e l'abbiamo cotti ieri sera un po' con le patate, un po' così, aria presente, per uscire buone veramente, ragazzi. E in mezzo c'era qualche lumaccone pure, mentre le lumache. Bisogna andare quando piove la mattina presto, già esce, per cui ya si trovano, capito? Infatti, molto, ma io una volta sono fatto le mani a pesca, la penultima volta, le mani a pesca, mettendo le mani per dare un rumo, mettendo le mani, ma lo so che è faticoso, lo so che è faticoso, ecco perché dico uno che fa questo lavoro, cazzo, se lo vede deve essere anche pagato perché è sacrificato, cazzo, all'ugridia, ma purtroppo è così, mentre ti fai dei guanti un po' di quelli grossi, e almeno per fare un rugo, capito? Lo so, è questo, ma adesso lo faccio, Io le voglio regalare e te le regalo di... si può regalare sempre, può capitare una volta uno, ma dopo, scusa, allora perché non faccio il sacrificio per regalarlo? Lo faccio pagare, gatto, in da ragione, gatto. Sì, ma per sacrificio e cercare di cagare, dice che non è poi già preso la burla misura che si può far da dottore a te, dottore Squalo. Ma per trovare i dai, che stiamo qui da telefonare, se ci domani, ci sentiamo domani. D'accordo, lui, ci sentiamo, va. Ciao, buone faccende, ciao. Dottore. Tomari! Dormi, dormi! Sono rientrato adesso! Oh! C'era uno che ci sta chiamando! Non lo so chi era, non l'ho capito, forse era Bacchini, boh! L'ho risposto io, ma non mi ha risposto, non mi ha tornato a rispondere, boh! Aspetta, guarda, attenzione Bacchini! Forse era in macchina, ma basso era! No, è normale, senz'altro è in macchina, no, non è a casa. Attenzione Bacchisio, qui sicuramente sarà rientrato nel garage, ci avrà messo la macchina, sarà nella casa sua. Senz'altro. Beh, ce n'era vento in quella parte, tu oggi. Cazzo, me l'ha giubilato tutto su Manzano. Oh, e dove eri? Aggiustandomi, cambiandomi gli altoparlanti nella macchina. Tu te l'hai detto. Me li ho presi, sono andato da Franco Enna per prendere, invece non li aveva. E mi ha mandato da Truni a prenderli. Già l'hai trovati? Sì, tutto è smontare il pannello, che dalla parte mia era stato già smontato e vi ho anche i cusi rotti. Sa chi li vende pure, è attrezzato bene questa roba. Un coso, quello di Viale Sicilia, di fronte, dove c'è il panificio di coso, di Cesaraccio, vicino a Fabbro, nel ripulitore. Quello che vende telefonia? No, è quello mi sembra. Cioè, allora, c'è la Frucifelli di Giovanni Pascoli, all'angolo di Viale Sicilia. Scendi, c'è il panificio e c'è quello che fa la furia autoradio, eccetera. Quello è attrezzato pure. No, ti ho capito che stai dicendo, ho capito. Ero lì vicino e passando, e sono passato lì e li ho presi. Ah, già presi li hai, ok. Allora uno piazzato così che ti devi piazzare l'altro domani. Me l'ho già piazzato e tutto. La misura sua e le cose è benissimo. Allora, funzionano bene, provateli. Sì, a voglia. La prima cosa che ha giubato è che hanno già piazzato tutti e due, prima di piazzare i pannelli. Li ho provati e funzionavano benissimo. Ce n'era uno, si è mangiato la gomma che tiene tutto il coso. Io sono uscito, mi sono fatto fare l'equilibratura, ma ha controllato se volevo invertite le gomme oppure no, invece non mi ha fatto solo l'equilibratura, dice che ancora vanno bene, tranquillo. E adesso sono a posto, adesso devo solo andare la cosa da, come si chiama quello, dalla via di Bacchisio, acqua meccanico, e farmi cambiare carta. Dai, l'altro giorno sono andato e non sono riuscito ancora a andarmi, sempre esco per fare una cosa, dopo passa anche lì invece mi dimentico. A me già mi chiama lui quando gliela devo portare, ha detto non fammi da troppo, anche se no da buio andiamo male. Ah, l'Inter, sì, l'Inter. Grazie. vedi vedi cos'è, da da innanzi alle mani, cazzo, da luni, cazzo, da, ci passo invece, ieri sono uscito e invece sono andato un altro posto e mi sono dimenticato, oggi sono uscito e mi sono dimenticato ugualmente, speriamo che non mi dimentichi domani. Non fa nulla, non fa nulla quello lì. Ma ho messo un paio di casse buone, solo che quelle che ho preso io erano con i Twitter però a parte, infatti mi sono rimasti i Twitter. Ah così è? No, non li ho presi quelli con i Twitter attaccati, li ho presi quelli con i Twitter a parte, e così io quelli ce li ho già piazzati. Ah, beh, ieri sai queste cose è tutta, io magari perché si interessa tanto più di queste cose. Ah, sai che io ho l'autoradio e il DVD lo fa, anche il DVD quell'autoradio che ho io. Cata. E cosa ha acceso? Da quando ce l'ho la macchina ce l'avevo acceso 5-6 volte tu. Non l'accendo mai il radio, pure quando esco fuori. Non mi va. No, io quando la prima macchina ce l'ho sempre acceso, non mi piace accusare. E quando sto viaggiando lo stesso. Io c'ho anche un saccaccio di film in macchina. Mi potrei fermare, magari guardare qualche film pure, no? Invece non mi deve regala, trub e basta. No, io ne volevo prendere uno di quelli, lo stesso così, con il DVD e coso, però che ci sia tutto quanto collegato, anche si colleghi anche il telefono. So che cosa truppa. Ma quelli sono già tutti predisposti, Vito. Io pure ho l'attacco del telefono, ma è chi l'ha attaccato male. Saranno. Quando ho preso la macchina mi hanno dato un orologio di autoradio che faceva pietà. Allora sono andato da Media World che me l'ho comprato io, mi sembra che l'avevo, allora sembra che l'abbia pagato 140, una cosa del genere. Ma c'è anche DVD questo qua, capito? Posso metterci anche la scheda, capito? Fa tutto quello che ho io, ma non le uso io, il frontalino è distraibile, infatti è dentro la scatolina. Le cose, ma ripeto, so che mi adoro il burattà ad attaccarlo. io già lo uso un pochino, solo che sentivo troppo vibrare, sentiva, e allora ho giubilato. Ho passato che mangiavo, tanto che ero libero, prima ho smontato il pannello e poi sono andato a prenderlo. Perché quello che metto in dotazione non è che siano un granchello, sono andati, sì, però non sono buone, capito? Bisogna trovarle buone, certo, che la radio deve essere perfetta, deve essere, capito? Sentire sul rumore. Così che quando sono buono il comune per forza devi ascoltare la musica proprio perfetta al 100%. Vabbè, io tanto stavo cercando i Fastman stamattina, invece mi sono arrangiato un fisso che va via. Ho adoperato uno di quelli lì e li ho messi ugualmente. E io ne ho due. Sei colonnine che ho io, c'ho sei colonnine io, otto. Da me ve ne so quattro, ve ne so due ad avanti, due ad arredo e due Twitter sopra nelle cose dove qui. Certo, io ne ho. Allora, due sporchelli davanti, due dietro il cofano e due laterali in sedile di dietro. Ma così si intende più bene, si intende. Così. Beh, Grazie. Sì, è caduto. Infatti, prima mettevo il baracchino, non mancava mai il baracchino della macchina. Quando volevo arrivare, insomma, come, finché ho preso questa macchina, io al parecchio, la radio, il baracchino l'ho avuto sempre. Mentre invece quando ho preso questa macchina, ho detto, ma sì, non attacco niente, solo la radio e basta. Baracchino non l'ho messo mai, non mi interessava, capito? Ormai, tanto i percorsi che faccio io, prima magari il baracchino lo usavo perché lavoravo a San Giovanni e quando ultimamente, per cui la mattina e la sera lo accendevo. Anche sul cambio l'ho avuto sempre il baracchino, la radio e il baracchino. Infatti il baracchino una volta in Giudia che mi avevo fregato dal cambio qua di fronte, però già l'avevamo trovato, ma me l'ha trovato a tempio il fratello di Mario Bravocialli, Ilio, e già me l'ha recuperato. Certo, non so bene da attaccarsi, dici. E allora, aspetta. Me l'avevo fregato dal camion perché lo lasciavo e poi non lo chiudevo mai il camion io, era sempre aperto, la cabina era sempre aperta, il container sì, era sempre chiuso. Forse per quello magari ha visto che non lo chiudevo più, ma io all'aperto hanno fatto le cose, i fili e se le hanno portate via. Dopo un mese già l'ha trovato, ma Elio, la buona anno. Perché il mio era quello lì, era tutto contrassegnato, no? Me l'aveva venduto coso, ombra rossa, il polisotto, capito? Ombra rossa, non so se tu l'hai conosciuto. Allora lui già abitava in Viale Sicilia. E mi ha detto, dice, se mi dà questa cornice, dice, ti do un baracchino. L'ho dato la cornice e mi ha dato il baracchino. Ed era tutto col nome suo dentro. Ecco perché l'ha riconosciuto Elio Bravocialli a tempio. Per quello allora. Ma se la si conosceva anche da come modulava anche lui. Si può conoscere. Come? Che si può conoscere anche dalla come inizia a parlare. Si può conoscere anche. Ah, così. Perché tu sai che c'è quel timbro di voce e della radio, con la radio lì si può riconoscere. Altre cose si possono fare, insomma. Così, però adesso più non le metto assolutamente, perché faccio percorsi corsi, così che io, cazzo, si ando a pigliare un bane, che ando in macchina, non mi posso attaccare lo baracchino, se va alla campagna non posso attaccare lo baracchino, a chi ha viaggio in campagna, capito? Per cui faccio passaggi corsi, per cui non è attaccato anche per quello, capito? Infatti così neanche io sto più mettendo, ho messo un paio di volte il buco, neanche io sono così. E se avessi entrato, signor Bacchisio, andava a va. Mattere madre, evidentemente si sta rinfrescando adesso, dopo si rilassa un po' che ha lavorato troppo e attaccare non attacca e magari non la gara sta sopra. Mi sa che c'è un po' che vedo di freschetto stasera. Com'è? Che c'è un po' di freschetto. Capo, ho detto che c'era oggi, capo. Ma l'ha detto, capo. Oh, poc'anzi c'era Luca del Monte. Due chiacchierette abbiamo fatto e dopo ha chiuso. Ma non c'è entrato nessun altro, Ci sono tutti a passeggio giù. Sono tutti a passeggio. E rimani, sei pari tutto. Sono andato a prendere la signora, vabbè, quando sono rientrato non verrà più nessuno. È fatto, è tutto strano, ma me l'ha immaginata, Allora è entrato un coso, California, ha chiesto un controllo. Già lo stavo ascoltando, ma era col colpito acceso. Però dopo l'ho speso, il colpito acceso qua, e già, ne ho fatto due chiacchierate così, 5 minuti nemmeno, e poi ho chiuso. E quando sono rientrato non c'era più nessuno, e allora ho detto arrivederci. E vabbè, ciao, alla prossima. Attenzione signor Marchisio, non c'è. Ti ho detto che si sta riposando adesso, che ha lavorato troppo in campagna, ragazzi, ed è tutto stanco, vuole solo fregato. Se la siamo di un caffuno. Può essere anche. Io oggi dovevo venire Vittorio, ma c'era molto vento, non si poteva salire sul tetto per questa televisione, perché è sempre un casino. Scendo giù, distacco la luce della scala, lo riaccendo e torna dopo 5 minuti sparisce e fa lo stesso lavoro. Allora, infatti stasera ho trovato e non c'era, stavo facendo l'intervento. Si vede che non l'hanno detto niente. Adesso domani mattina ci passo io direttamente e io dico, se non fa vento saliamo, cambiamo le antenne e ne togliamo anche con la scusa, perché è un rebus, che ho fatto la televisione, il primo, il secondo, il terzo, tutti gli altri canali funzionano, la RAI non c'è remedio, boh, funziona fa 5 minuti nemmeno pure, e quando funziona certe volte è tutta strisce e se ne capisce un tubo, dopo sparisce il quadro e dice non c'è segnale. C'è da controllare dei viatori e tutto quanto bisogna controllare. Adesso mi do un po', perché capta solo la RAI, è solo la RAI. Adesso infatti abbiamo le antenne, cambiamo tutte e due le antenne, primo e secondo, e vediamo un po' cosa succede, cazzo, perché è un rebus, nessuno, cazzo, funziona solo in HD, canale 51, cazzo, ma è normale, non funziona, capito? Ho capito, sì. Qualche deviatore c'è che non funziona bene. Qualcosa ha creato quel lampo, quel tuono di venerdì, capito? Qualche cosa, la centralina l'ha bruciata direttamente. Evidentemente ha combinato qualche cosa. Adesso vediamo un po', prima mettiamo le antenne, dopo in caso mai controlliamo anche i spartitori, vediamo un po' se sono da cambiare oppure no. Perché è un rebus, solo la RAI, Sì, non lo so, perché me lo fa... Cioè, qualche volta me lo fa anche a me qua nel soggiorno, però me lo fa. Infatti stacco l'antenna e va. Allora, non vedo poco che non me ne fermi più. Cazzo, a me è un rebus. Magari io, la RAI, cazzo, chi è che non l'accende? Accendiamo tutti. Magari c'è un programma che ci piace, ma non lo puoi vedere perché non funziona. Cazzo. Gli altri canali sì, ma la RAI no, niente da fare. Adesso mi viene un po' male, cazzo. Infatti no, c'è sceso, perché già che era tutta dolori e poi c'era questo vento, come fa a salire sul tetto questo vento? Ma scherzato stai, ma che ho per assaggio, questo era il vento di Grecale, è freddo buru, era lì. Infatti l'ha messo vento di Grecale, quindi non bisogna stare in nessun luogo. E che per mangiare era un po' che due voci. Adesso la tira la forte, sì. E stasera ha calmato, stasera ha calmato un po'. E adesso mi sembra che non c'è niente. Ragazzi, ma potevo lasciare le stesse aperte, no? Che smazzolava da parte all'altra e abbiamo dovuto chiudere tutto. Infatti è così. Questo momento bisogna lasciarlo stare, cosa che è un po' gare a voi che è freddo. Infatti diciamo che aveva abbassato un po' credo la temperatura a Buri. Ma ne fa caldo, vedrai che domani fa un po' di caldo. Se non per tornare il tuo vento. Speriamo di no. Anvio, speriamo di no. È un macello, quanto si vede un macello, per carità. Già così sì. Cioè così, se c'è il vento è brutto. Aspetta un attimino. Attenzione al signor Battisio! Ha detto che stasera non ha gara entra. Vabbè. Già ne abbiamo pazienza noi, dai. Quando può entrare entra, quando non ho pazienza, già. Tanto in la ragione. Già fine Pugara. Noi magari entriamo quest'oretta alla sera, ragazzi, nemmeno pure 10 minuti, un quarto d'ora massimo. Però durante il giorno io lo accendo, ma non c'è mai nessuno. Ieri c'era un po' di propagazione, però qua in Sassia non vera un'anima, un'anima. Infatti, spariscono. Ma vedete che un freddo comincia a entrare, ma non che non so travaglieni. Speriamo bene, senta che scusa. Ma male lo fa da risciula, va, così che già sono liberi, forse sono stancati, vabbè, la porta è sempre aperta, vedranno loro cosa fare. Vabbè, così se vuoi entrare, se no se rimangono dove sono. Già lo grivi, già mangio con me stessi, Già mangio ugualmente anche se non c'entra nessuno. Ho notto. Io ero grido, ossia che mi dà gli imbattiti a me. Non me ne devo preoccupare, no? Allora, che? Adesso dobbiamo ammazzarlo. Non esce di campagna, presto, alle 8:30 sono a casa. Così che, dopo fino a domenica non ci sento. Ma domani, domani mattina, sono in una fiaccia e me ne salto. Poi certo presomi, alle 6:30 sono già in campagna, cominciando a... è buio ancora, alle 6:30 è buio ancora. Poi è tutto illuminata la campagna mia, accendo i fari e vedo bene, capito? Copriti per quello perché c'è freschetto domani mattina. Già mi metto in coppa maniche lunghe, il giubbotto, ma di sicuro, e un berretto. Fate così. E così, signor Battisio, non è entrato mezzo baedo. E sai che io ora pure da andare a mangiare. Noi non sapevo tutto. Mi baita che vuole burro, ma ce la devo, anche se sono già quasi rotto. Per cui pazienza. Lo sentiremo domani, si entra. Vabbè. Vuol dire aspettiamo a domani. Vabbè, dai, Giovanni, ci sentiamo domani, ci sentiamo alle prossime. D'accordo, ci sentiamo, sono di casa alle domani. Ciao. Ciao Giovanni.